A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ora che la crisi morde e la tensione sociale sale, ora che sui muri di San Vittore gli slogan dei Notav si mescolano a quelli degli anarchici e compaiono pure scritte con lettere greche, la fronte di Ago si aggrotta di nuove rughe. Le ha già viste lui certe congiunture, le sa riconoscere e per questo avverte massima attenzione non abbassare la guardia. Parola di Agostino Darina, tenente colonnello, investigatore d'altri tempi e di ineguagliate esperienze. Una vita passata a caccia dei terroristi che insanguinavano Milano come dei primi mafiosi che la colonizzavano. Dal 1970 nell'arma dei carabinieri, nella sua carriera appena finita con la pensione, ha attraversato alcuni dei momenti più bui della nostra storia e ora che certe tensioni montano, Ago richiama le parole di alcuni ex brigatisti che ha conosciuto bene, come pure davanti alle ultime inchieste sull'andrangheta a Milano si ricorda di quanto gli disse il primo vero pentito del Nord, Antonio Zagari. E allora partiamo da qui in questa puntata di A ciascuno il suo. Io affiancavo il dottor Spataro e questo grande collaboratore che è Zagari Antonio, figlio certo. Di un grande boss, e il papà è stato il primo calabrese trapiantatosi in Lombardia. Si inizia addirittura con il contrabbando di bergamotto, poi con il passare del tempo i sequestri di persona, poi il traffico internazionale di stupefacenti e l'andrangheta cambia fisionomia. Abbiamo una mafia economica finanziaria. E stesso Zagari disse che chi riuscì a dare l'impronta diversa a questa organizzazione fu Paolo De Stefano, e disse proprio: l'andrangheta da rurale che era è passata a quella manageriale. Paolo De Stefano è un altro importante boss, un altro nome noto della notissimo, diciamo così, importantissimo di Reggio Calabria, dell'andrangheta, appunto Regina, che è stato anche, diciamo, poi ucciso lui negli anni passati, però tuttora la sua famiglia è una delle famiglie più potenti e indiscusse, diciamo, dell'organizzazione. E quando Zagari vi raccontava questo, vi raccontava di come appunto con De Stefano l'andrangheta esportata, l'andrangheta a Milano, aveva cambiato pelle. Chiaramente voi vi rendevate perfettamente conto anche della portata di queste dichiarazioni, di che cosa volesse dire. Voleva dire che Milano stava diventando come Reggio Calabria. Esattamente così, perché nelle carte processuali io usai questo termine proprio, il cosiddetto cordone ombelicale, che non si è mai staccato, cioè dalla terra, diciamo, d'origine con quella milanese, i cosiddetti locali, come le stazioni dei carabinieri, il cosiddetto controllo del territorio. Sappiamo della sua importante anche memoria, della sua capacità di ricordare perfettamente anche tante cose successe tanto tempo fa, che è una cosa tipica molto degli investigatori e soprattutto degli investigatori vecchio stampo, forse. Ecco, a tanti anni di distanza, cos'è che soprattutto di quelle parole di Zagari le è rimasto più impresso e in cui oggi, ripensandoci, ci ritrova un po', diciamo, in nuce, in bozzolo quello che poi si è anche stato ricostruito sulla presenza dell'andrangheta? Zagari Antonio disse: la persona che appartiene all'organizzazione criminale dell'andrangheta, in ogni città, in ogni paese c'è capo locale, le persone con le quali lui si deve rapportare sono il comandante della stazione, il sindaco, l'ufficiale postale, il prete. Un altro collaboratore ebbe a dire: anche chi vendeva le caldarroste o le bibite su un marciapiede di una strada doveva chiedere l'autorizzazione, diciamo, al massimo responsabile di quella zona. E infatti anche inchieste poi più recenti hanno per esempio raccontato che anche i venditori dei panini è tutto così chiaro. Un altro collaboratore di giustizia, il dottor Nobili, Morabito Saverio sto parlando, ne stiamo arrestando 300, ce ne sono altri 3.000 pronti. perché la chiave delle infiltrazioni arrivate fino agli ingranaggi dell'alta finanza, come prova ad esempio anche l'arresto di un broker a Milano, è sempre nei soldi, i tanti soldi su cui la 'ndrangheta può contare per ammissione di uno che ne ha fatto parte a lungo, come Saverio Morabito, appunto, già boss prima di saltare il fosso. Quindi i soldi servono per ungere, servono per fare regali, per aggiustare processi. A differenza di altri, le famiglie di 'ndranghetisti che hanno dei congiunti in carcere riescono comunque a ridurre la pena ottenendo delle agevolazioni a lungo termine. I barbaro che hanno cani, escavatori, ruspe, prendono appalti a destra e a manca, se andiamo indietro a guardare gli altri, da dove hanno preso questo input di denaro per iniziare l'attività e acquistare i camion? Secondo me è sempre quello l'elemento determinante. Il comune denominatore sono i soldi. E nelle inchieste contro la 'ndrangheta di oggi, un vecchio investigatore come il maresciallo D'Arena ritrova gli stessi meccanismi ricostruiti anni e anni fa. In tutte queste inchieste troviamo sempre appartenenti alle forze dell'ordine, troviamo magistrati, troviamo avvocati, troviamo imprenditori, uomini politici, eccetera. Ecco, questa è la forza di questa organizzazione. Quindi quello schema che voi avevate sentito dalle parole stesse di uno dei primi e più importanti collaboratori di giustizia della 'ndrangheta, ossia Zagari, è uno schema che poi è stato ritrovato e ripetuto in tutte le inchieste a venire. Che vita facevano o se è cambiata dagli anni passati rispetto ad oggi anche la quotidianità di questi personaggi che a Milano vivono pur lavorando al servizio dei loro clan? Anche Zagari Antonio, a parte qualche bella autovettura, conduceva una vita normalissima. La loro vita è dedicata soltanto all'organizzazione, devono curare sempre l'aspetto carcerario, non si fanno mancare nulla. Alcuni, diciamo, si può dire che eccedono, come per dire la famiglia Valle che è stata toccata ultimamente, ville faraoniche, eccetera. In modo particolare quando si vive in latitanza, e dove sono stati trovati tanti latitanti, cioè ecco proprio la cultura, no? Chi sottoterra, chi nel bunker. Un'abitudine a sì, essere sotto traccia. Sì, io ripeto, guardi, le esperienze che ho fatto da quelle indagini, diciamo così, anche Zagreb, per dire, quando era latitante, oppure quando arrivavano i carabinieri a casa sua, che lui abitava a Malnate, la via, diciamo così, per arrivare a casa sua era per forza una sola via che doveva essere percorsa dagli operanti. Dalla finestra si vedeva di notte, di giorno chi arrivava. Lui poi di dietro aveva una finestra, la scavalcava ed era subito in aperta campagna. Ebbene Zagari racconta, ed è vera, diciamo, questa cosa, che il suo rifugio era una tana sottoterra. E lui, diciamo, in questa tana metteva, diciamo, tutti scatolame per poter sopravvivere 15-20 giorni e far cessare, diciamo così, il pericolo imminente. E infatti molti dei latitanti poi vengono trovati in questi bunker sotterranei che sembrano più caverne, buchi, che non, diciamo, guardi, delle dimore. Ma basta ricordarsi un pochettino anche i sequestri di persona, no, degli anni 70 e anche certo, quelli, diciamo, più recenti. Ecco, l'ultimo in ordine è stata la signora Sgarella, tenuta, diciamo, in Calabria, ecco dove era il cordone che non si è mai spezzato, eccetera. Sequestrata in Lombardia e portata in Aspromonte, esatto, in Calabria. Ma poi le dichiarazioni di Zagari toccano diversi sequestri di persona, anche se è stato pagato parte del riscatto, gli ostaggi non sono mai tornati a casa e si tratta di un ragazzo di 14 anni, Riboli Emanuele, poi De Michelis e quello di Tradate Cortellezzi. Per il sequestro Riboli sono stati individuati anche gli esecutori materiali, però non si è arrivati mai a trovare le spoglie di queste persone. E queste sono, ecco, poi cose che anche chi ha tanta esperienza e tanta carriera alle spalle immagino si porti dietro, no? Come l'umanità della persona, il rispetto della persona è fondamentale. All'epoca mi sembra che non esisteva nemmeno poi ancora il blocco dei beni. Quando Zagari decise di voler cominciare a parlare, che cosa vi raccontò? Cos'è che l'aveva indotto a voler cominciare a parlare? È nato, diciamo così, direttamente con il generale Ganser, comandante del ROS. Le motivazioni derivano dal fatto che morì il fratello Enzo, e da questa morte lui, diciamo così, rimase molto molto traumatizzato. Erano molto molto molto legati e lui lo ripeteva sempre: se non fosse morto io non avrei fatto, diciamo così, questo passo di collaborare con l'autorità. Saltare il fosso, come si dice in gergo. È stata molto travagliata, diciamo così. Non è facile da parte di nessuno fare dichiarazione contro la propria famiglia. I suoi verbali, parlava anche delle eventuali possibili ripercussioni che queste sue collaborazioni avrebbero avuto all'interno della sua stessa famiglia. Notavate il suo travaglio? Certamente sì, inizialmente lui aveva sì iniziato a collaborare, però non aveva svuotato, come si suol dire, tutto, diciamo, i suoi trascorsi, e in modo particolare non si parlava dell'associazione di stampo mafioso. Questo è stato uno dei primi processi impiantati a Milano con il 416 bis. Lui l'ha dichiarato, quello che ha determinato pian piano la maturazione, la sua nuova compagna, i figli, a fargli cambiare, diciamo, completamente atteggiamento processuale. Lui poi ha sempre voluto presenziare a questo grande processo, presieduto dal presidente Soprano. Era la prima volta che si riuniva una corte d'assise a Varese, nell'ex Aermacchi, procedimento penale numero contro Zagari Antonio più 150. Quindi parliamo di processi con 150 persone. Esatto. E questo forse anche, diciamo, rende ancora più complicato e più difficile il lavoro. Difficile, ma poi tutto l'apparato che deve essere, diciamo così, messo all'impiede, la gestione, farli convergere tutte le mattine a Varese, non è stato facile. Non è stato facile, un maxi processo alle infiltrazioni. È l'aspetto ancora più determinante. E da lì nasce un'altra grande operazione, Isola Felice 2, altri 150, un procedimento con altri 150 arresti. Ma ci sono altre persone che Ago, investigatore che ha lavorato già nella squadra del generale Dalla Chiesa e poi al fianco di un magistrato come Armando Spataro, ha accompagnato in un cambiamento di vita, dai boss che saltano il fosso ai brigatisti che cambiano vita. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A Ciascuno il Suo, con gli ultimi incontri recenti del tenente colonnello, ora in pensione, Agostino D'Arena, con brigatisti dissociati che con preoccupazione osservano certi movimenti recenti. A ciascuno il suo. Il giorno in cui Massimo D'Antona cadde sotto il fuoco delle Brigate Rosse, una vecchia brigatista alla notizia pianse. L'Italia allora sembrava tornare indietro di due decenni, e 10 anni sono già passati anche da quella sera del 19 marzo in cui un altro giuslavorista, Marco Biagi, collaboratore di un altro ministro, cadeva sotto lo stesso fuoco terrorista. Quando la stella a 5 punte tornò ad uccidere, tutti gli investigatori con più esperienza furono riconvocati, e anche Ago, il tenente colonnello Agostino D'Arena, passato nella sua carriera dalla squadra di Dalla Chiesa alla caccia ai boss calabresi, ricominciò a riannodare i fili con quei terroristi che aveva lui stesso accompagnato in un percorso di riscatto. Tuttora oggi, guardi, io ho rapporti con queste persone. E un rapporto nato appunto tra chi indossa la divisa, sì, e chi in quegli anni appunto sparava anche per strada, perché erano, esatto, appunto ex brigatisti. Ma loro hanno visto sempre in me e in tanti miei colleghi quelle persone, diciamo così, completamente diverse, umane, disponibili. Com'è nata? Piccole considerazioni, valutazioni, anche al momento dell'interrogatorio, tanti interrogatori duravano non più di 2 minuti, mi riconosco prigioniero politico, l'interrogatorio, anziché farlo per dire a San Vittore in un altro carcere, avveniva in caserma, quindi c'era la possibilità di tenere in camera di sicurezza questi detenuti. Faccio una piccola parentesi, non è stato mai tolto un capello a nessuno. E queste sono le polemiche che ci sono ogni anche sugli arresti che avvenivano durante gli anni di piombo. Mi è capitato un episodio proprio al Palazzo di Giustizia, davanti alle macchinette lì del caffè. Un suo collega mi fa a me, dice: ho visto il film di Prima Linea. Ma dico: guarda, a me non c'è bisogno del film, conosco, diciamo, perfettamente tutta la storia di Prima Linea, eccetera. Ma è vero che l'avete percorso? Sono rimasto molto molto male e ho avuto questa espressione: se lo dici un'altra volta ti faccio entrare con la testa nella macchinetta del caffè. È detto da lei, riferito al protagonista di quel film, io ho preciso soltanto una cosa: era il 15 gennaio del 1983, era di sabato, lui è stato il sabato sera in camera di sicurezza. E diciamolo anche chi è lui. È Sergio Sergio. Certo. È stato la domenica e lunedì mattina, con scorta da parte dei carabinieri del nucleo traduzione, è partito per un processo in corso a Firenze contro Prima Linea, perché lui era imputato e ha chiesto di presenziare. Ma se Sergio Sergio fosse stato toccato, avrebbero fatto, diciamo, ferro e fuoco. Polemiche che sono ritornate anche a proposito della vicenda Battisti, rispetto agli arresti che ci furono dopo le sparatorie, i delitti di cui è accusato Battisti. Guardi, ci furono. Io quella vicenda la conosco molto molto bene. Lo so. Lei deve tenere presente che capi storici dell'organizzazione eversiva, Mario Moretti, Barbara Balzerani, lei li ha mai sentiti parlare? No, io no. Oh, no, nemmeno io, nessuno li ha sentiti mai parlare. Ecco la validità, l'importanza, la dissociazione da un certo, diciamo, discorso. Che lui va al carnevale, va a ballare, eccetera. Gli ha risposto il Presidente della Repubblica: di fronte a queste cose è meglio il silenzio, oltre, diciamo, a far parte dei proletari armati comunisti. Era un criminale. Un po' più di recente, quando ci fu il delitto d'Antona, ebbe occasione di ritornare in contatto. Lo posso dire con molta chiarezza: nel 1999 l'organizzazione era ricombattata. Certi errori si pagano, in effetti, perché poi dal 1988 si è affievolito l'interesse nei confronti, diciamo così, delle organizzazioni o di svolgere proprie attività. No, di prevenzione. Quando ci fu il delitto d'Antona, che cosa successe? Molta preoccupazione. E allora io, con i miei colleghi, sono stato anche a Roma 2 o 3 mesi, ho detto quei caporali di una volta, nel 99 erano diventati colonnelli dell'organizzazione, anche perché non è da sottovalutare l'aspetto carcerario. Noi oggi in Italia 2012 ci sono ancora persone arrestate negli anni 80 che stanno scontando, diciamo, la loro pena, e sono i cosiddetti irriducibili, no? Questo vuol dire che, secondo lei, ancora oggi ci dovrebbe essere più attenzione rispetto a... Certo, non bisogna, diciamo, abbassare l'attenzione, perché dopo D'Antona c'è stato dopo il delitto Biagi, certo. Biagi, e se non fosse stato per quell'incidente che ha causato poi la morte di un ispettore di polizia, Petri, esatto, e la morte di Galesi, ci sarebbe stato il terzo, il quarto e il quinto. Anche 10 componenti possono portare avanti un discorso, perché non tutto è stato scoperto ed è chiaro. Ecco. Secondo lei, in un momento come questo attuale, con un'Italia in una situazione così difficile, si sta monitorando in modo adeguato le aree da cui potrebbero venire fuori nuovi pericoli? Indubbiamente sì, però è difficile arrivare in poco tempo all'organizzazione vera e propria, no? Lei appunto è stato anche nella squadra del generale Dalla Chiesa e uno dei momenti in cui si segna forse la fine stessa dell'eversione è quella della scoperta del covo di via Dogali. Giugno 88, Milano come colonna delle Brigate Rosse, quella che proprio diciamo così era presente sul territorio, era la colonna della Walter Alasia. Vennero individuate due persone che a nostro avviso potevano dare quella inquadratura di appartenenti. Le carte processuali ci dicono che questi personaggi milanesi andavano cercando il contatto proprio con i romani, si spostavano continuamente a Torino ogni sabato perché l'organizzazione aveva l'appuntamento strategico. Non c'è mai stato questo incontro e si è continuato il cosiddetto blitz, le perquisizioni eccetera, e appunto in via Dogali abbiamo trovato la base strategica dell'organizzazione PCC. Quella che noi vedevamo sin dall'inizio ce l'hanno poi detto loro, la conferma di tutto questo. A ciascuno il suo, termine qui. Vi ricordo come sempre che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.